sono state una bella vita per lui, ma soprattutto per noi, perché Filippo veramente ci ha cambiato la vita, ci ha fatto vedere proprio la natura, gli animali con occhi nuovi, con occhi diversi. Io ero figlia di contadini, per me era normale mangiare un animale, adesso non potrei mai. Ci siamo trovati mio marito un giorno mentre mangiavamo una coscia di pollo, noi è più di 5 anni che siamo vegan, ci siamo guardati e abbiamo detto no, non è possibile, è come se mangiassimo Filippo. Quindi penso che in ogni essere vivente, non umano, quindi quello che noi chiamiamo animale, potrebbe esserci un Filippo in qualsiasi essere vivente. Io ne sono convinta, ne sono consapevole, perché Filippo veramente non ce lo saremmo mai immaginati. Quindi lui ha vissuto bene con noi, ma noi forse abbiamo imparato molto di più noi da lui che lui da noi, sicuramente, sicuramente. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Siamo a Milano, in piazza San Carlo, dove oggi si sta svolgendo uno dei tanti presidi e banchetti di raccolta firme organizzati da Nemesi Animali per chiudere gli allevamenti da pelliccia. E siamo con Nick, che è uno dei volontari di Nemesi Animali. Nick, ci puoi spiegare come mai siete qui, che cosa chiedete oggi? Beh, noi innanzitutto siamo qui per la campagna Visoni Liberi, che è una campagna nata sia da Nemesi Animali che da Essere Animali, un'organizzazione di attivisti romani con cui collaboriamo da anni e sono ormai nostri amici. È una campagna per chiedere l'abolizione degli allevamenti di animali da pelliccia sul territorio nazionale. Sono principalmente allevamenti di visoni e c'è anche qualche allevamento di cincilla. E noi siamo qui per dare un'ulteriore spinta già alla fortunatamente enorme insomma, quantità di firme raccolte fino adesso, per fare pressione sulle istituzioni affinché mediante una legge aboliscano questi allevamenti, che sono dei veri e propri lager in cui gli animali sono rinchiusi in piccole gabbie e vengono uccisi per soddisfare un bisogno ovviamente non necessario, non utile, ma insomma è un bisogno che è anche sporco di sangue, un bisogno che non ha assolutamente senso di esistere. Ci sono adesso, credo, due proposte di legge depositate in Parlamento che necessitano di essere calendarizzate e poi discusse. Il nostro obiettivo ovviamente è quello di fare pressione e di spingere affinché vengano discusse il più presto possibile. Dal vostro punto di vista effettivamente c'è una risposta da parte della gente? Molta gente scopre questa realtà o c'è ancora molta indifferenza? In questi ultimi anni è aumentata molto la sensibilità delle persone rispetto a questi temi, al tema dello sfruttamento e della sofferenza degli animali. Sulle pellicce ovviamente c'è un pochino più di sensibilità rispetto a quando noi organizziamo altre proteste o facciamo altri presidi per quanto riguarda per esempio il veganismo, no? Su quello c'è ancora un pochino di indifferenza. Sono più di 20 città italiane che hanno aderito alla nostra giornata nazionale di raccolta firme, la nostra giornata informativa, e dal nord al sud abbiamo avuto un feedback veramente positivo. Tante città si sono auto-organizzate e ci hanno richiesto il materiale che abbiamo prontamente spedito. E voi oltre a questi banchetti fate proprio anche, come Essere Animali e come Nemesi Animali, presidi, proteste davanti agli allevamenti che sono sorti recentemente e che devono anche sorgere. Esattamente, sì. Ovviamente da mesi stiamo sempre raccogliendo informazioni su tutti questi nuovi allevamenti che stanno nascendo, che sono in procinto di nascere o che purtroppo sono già nati. E quindi parte integrante, insomma, di questo lavoro in piazza è anche farsi sentire direttamente dagli allevatori e fare sentire a loro che ci siamo e che protesteremo finché questi allevatori non chiuderanno i loro lager e non cesseranno le loro attività di morte. L'AIAV, che è l'Associazione Italiana Allevatori di Visone, ha indetto un Open Day, ovvero una giornata aperta per fare vedere, insomma, alle persone come loro trattano bene i loro animali e di quanta passione mettono nel loro lavoro. Ovviamente questi Open Day non sono molto open, soprattutto per noi. Abbiamo provato più volte a entrare, anche con delle tessere da giornalista, ma l'accesso ci è stato negato, quindi Open Day, insomma, forse per i giornalisti, amici loro, la realtà che fanno vedere è ben diversa dalla dalla realtà normale che subiscono gli animali. Il presidente dell'Associazione Italiana Allevatori Visoni, Giovanni Boccù, che tra l'altro è proprietario di uno dei più grandi allevamenti di visone, fa molta propaganda sui media, no? Parlando, insomma, avendo come leve nei suoi discorsi la necessità di lavorare in questo periodo di grande crisi. Ecco, la crisi però non è una scusa per iniziare o continuare a fare attività che prevedono l'uccisione e lo sfruttamento di animali assolutamente innocenti che non devono essere lì, perché ricordiamoci che i visoni non sono specie alloctone, non sono specie che vivono in Italia, loro dovrebbero stare nelle foreste in America e non dovrebbero essere chiusi in gabbia per poi essere scoiati per fare pellicce. Roberta Marino, corrispondente da Milano di Restiamo Animali. Pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Gabriele, che cosa cuciniamo oggi? Andiamo a fare un pesto. Pesto per condire una pasta con pesto, fagiolini e patate. Cominciamo prima di tutto a dare gli ingredienti, le dosi, anche se a me personalmente piace più andare a occhio sui piatti, però so che per esigenze le persone preferiscono. Noi vogliamo essere precisi. Però sappiate che si può giocare in cucina, ecco. Si prova, se poi ci piace un po' più forte, meno forte, questo è a gusto personale. Potete anche aggiungere oltre a quello che dico io, non mi offendo. Può essere rischioso, io preferisco seguire pedissequamente le dosi. Prima di tutto occorre più o meno un etto, 100 grammi della ricotta famosa che abbiamo appena fatto, questa ricotta di tofu, di latte di soia. E se non vi ricordate più la ricetta della ricottina autoprodotta che Gabriele ci ha già dato, andate a spulciare nel podcast della nostra trasmissione di giovedì 3 ottobre, che troverete nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com nella sezione appunto podcast. Poi uno spicchio d'aglio, un cucchiaio di pinoli, un cucchiaio da minestra di pinoli e 4-5 griglie di noce. Poi del basilico, oppure si può fare anche un pesto un po' più aromatizzato, alternando al basilico mettendoci magari del timo, dell'aneto, che è questo finocchietto selvatico, buono. Della salvia, del rosmarino. Si può mescolare un po' gli aromi invece di solo basilico, oppure se ci piace una cosa un po' più delicata, diciamo, più classica, mettiamo solo il basilico. Dell'olio extravergine d'oliva, chiaramente. Un etto di pasta a testa, quindi se lo diciamo per 4-5 persone, 400 grammi, mezzo chilo di pasta. E poi per 4 persone, 2 patate e una manciatina di fagiolini, un etto circa. E ora passiamo al procedimento, con il nostro famoso frullatore a immersione. Stressato da tutto stressato. Questo lavoro, non era mai stato utilizzato così tanto negli ultimi 15 anni. Dobbiamo cambiare spesso. Allora mettiamo nel bicchiere l'aglio, la frutta secca, quindi pinoli e le noci, e li tritiamo un po' da soli. Poi ci aggiungiamo il basilico o le erbe aromatiche e tritiamo un altro po', perché così si trita meglio. Se mettiamo tutto insieme viene molto più liquido, così rimane un po' più tritata la foglia che si vede, che è più carino. A questo punto ci aggiungiamo, dopo diciamo la seconda tritatura, aggiungiamo la ricotta di tofu, la nostra famosa ricotta, e l'olio extravergine d'oliva, che chiaramente possiamo mettere a filo finché non vediamo che ha la consistenza che ci piace. Lo possiamo allungare anche con un romaiolino di acqua di cottura, che poi vedremo, no? delle patate e dei fagiolini, che poi useremo per la pasta. Quindi diciamo il nostro pesto è pronto e lo lasciamo da una parte, magari in frigorifero si sfredda un po'. A parte bolliamo, mettiamo una pentola a bollire e ci scottiamo le patate e i fagiolini, che abbiamo tagliato le patate a quadrettini e i fagiolini a tocchetti, a pezzetti, abbastanza grossotti, insomma, non proprio piccoli. Le scoliamo in quest'acqua, non dobbiamo cuocerle tanto, devono rimanere un po' al dente, un po' tostine. Le scoliamo e manteniamo però l'acqua di cottura, perché in quell'acqua ci cuociamo la pasta. una volta che la pasta è cotta, chiaramente al dente, non si dovrebbe dire. Questa volta scoliamo e possiamo buttare via l'acqua. E saltiamo la pasta, la fondiamo, saltiamo in una padella con le patate e i fagiolini. Se ci piace ancora un pochino più saporito, le possiamo ripassare un attimo in padella con uno spicchietto di aglio e di olio e il nostro pesto. E le serviamo così, magari una bella foglia di basilico sopra. Scusa, ma te hai buttato via l'acqua della cottura della pasta, ma se ti serve il ramaiolino d'acqua? Scherzo, per la mia. Lo metti via prima. T'ho beccato. Vai beccato. Ma magari nel frattempo. Buttate via l'acqua tranne un ramaiolino. Sì, che ci serve magari, giustamente, se viene un po' troppo asciutta. E poi fateci sapere com'era questa pasta al pesto. Sì, aspettiamo il feedback. Sale e pepe, quanto ci piace. E una mail a Gabriele Palloni attraverso il nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Grazie Gabriele, ciao ciao. Ciao. Well, the cop made the showdown. He was sure he was right. He had all of the lowdown from the bank heist last night. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. All the children were killers. They couldn't get no relief. Oggi parliamo di un libro importante. Si intitola Crimini in tempo di pace. L'hanno scritto Massimo Filippi e Filippo Trasatti. Il sottotitolo è La questione animale e l'ideologia del dominio. È un libro che unisce un'analisi teorica, una proposta teorica, a un'analisi storica della questione animale e fa anche delle proposte sulle prospettive del movimento animalista e antispecista. Siamo con Massimo Filippi, ospite per la presentazione di questo libro della vetrina dell'editoria anarchica e libertaria a Firenze. Massimo, questo libro mette a fuoco soprattutto l'ideologia del dominio che tu dici nel movimento animalista spesso non è così presente, non è un elemento così chiaro di lettura della questione animale. Cosa intendi? Beh, intendo che tradizionalmente e anche recentemente il movimento animalista si è pensato come movimento rivolto puramente agli interessi dei non umani, come se risolta la questione dei non umani l'intera situazione sociale e i disastri, le tragedie a cui giornalmente assistiamo, non ultima quella dell'altro giorno dello cosiddetto sbarco dei migranti a Lampedusa, possano magicamente risolversi. Se da un lato, diciamo così, al pensiero libertario o genericamente di sinistra manca l'aver individuato che è anche nello snodo della questione animale che si gioca un ruolo importante per il ripensamento di questa società, nell'ambito del movimento animalista è spesso mancata e tuttora manca l'idea che esiste una costruzione storico-sociale del dominio nella quale l'uomo stesso è preso, ed è preso per un primo motivo molto semplice, che anche l'uomo è un animale. Sentiamo spesso parlare di animalismo inteso soltanto per gli animali, probabilmente diciamo così, arricchire questa visione con una visione del dominio inteso come sistema di potere che ha presa sulla vita dall'inizio alla fine e in tutti i suoi aspetti biologici, sicuramente arricchirebbe l'animalismo di una visione politica, di una visione di rimodellamento sociale un pochino più complessa e un pochino meno naif, e sicuramente non escluderebbe l'animale umano dall'orizzonte dell'animalismo stesso. Perché avete dedicato così grande attenzione alla trasformazione dell'industria della macellazione, l'industria, la filiera alimentare, con un capitolo intero dedicato al tema cosiddetto della carne felice? E perché pensiamo che c'è in corso un meccanismo di ristrutturazione dell'industria della carne. Cioè l'industria della carne non si basa più sul concetto cosiddetto cartesiano dell'animale macchina, anche loro hanno capito che l'animale non è una macchina, che l'animale è senziente, e quindi sentono il bisogno di rispondere alle preoccupazioni e all'aumentata consapevolezza dei consumatori proponendo appunto fattorie didattiche, allevamenti felici, fattorie felici e carne felice. L'operazione è un'operazione, come diciamo nel libro, molto subdola, perché fa credere al consumatore che 7 miliardi di umani possano alimentarsi di carne di animali cresciuti felicemente. È subdola perché istituisce una specie di scambio simbolico dove io ti tratto bene per tutta la vita e tu in cambio mi ripaghi con la tua vita stessa. È subdolo perché reintroduce l'uccisione dell'animale che era stata spostata al di fuori della città, all'interno della città stessa. Non è più tabù, diventa qualcosa che addirittura lo si manifesta con orgoglio di consumatore consapevole. E soprattutto, se l'animale non è più una macchina ma è un essere senziente, nonostante sia un essere senziente, può essere comunque macellato e ucciso per i nostri fini. Questo, diciamo così, è una sorta di insegnamento anche per l'umano, cioè non basta essere senziente per essere protetto dal fatto di essere carne macellabile. Sul piano pratico, visto che questa visione è una critica piuttosto anche forte alla tradizione del movimento animalista, qual è la proposta che viene fuori dalla vostra analisi, dal vostro libro, che un coinvolgimento in movimenti politici dovrebbe fare il movimento animalista, ma forse è meglio dire antispecista a questo punto? Le proposte pratiche sono tante. Innanzitutto quella che dicevi tu, cioè che il movimento animalista non può più pensarsi come l'apice di un processo di purificazione ascetica, tale per cui non può discutere con altri movimenti che portano avanti una istanza di critica e di emancipazione sociale. Un altro aspetto è sicuramente l'evitare argomenti antropocentrici. Spesso si sente ancora all'interno del movimento animalista posizioni come quelle dell'antivivisezionismo scientifico o del fatto che la dieta vegana faccia bene alla salute, che poco hanno a che fare con l'istanza politica centrale del movimento animalista. Non credo che nessun antischiavista dell'Ottocento abbia mai portato avanti una critica dello schiavismo, un tentativo di abolire lo schiavismo, perché gli schiavi neri lavoravano nelle piantagioni di tabacco, il tabacco lo fumavano i bianchi e il tabacco fa male alla salute. Quindi smarcarsi da questo tipo di antropocentrismo credo che sia un altro aspetto pratico importante, ma forse l'aspetto più importante è quello di indicare con chiarezza che il problema non è dove si traccia la linea di confine, come abbiamo sempre fatto, includendo e escludendo gli animali, includendone alcuni e escludendone altri, includendo e escludendo certi gruppi umani, per poi scoprire successivamente i disastri storici e politici che questo ha generato, ma evitare a priori di tirare questa linea, che il problema è l'idea stessa che ci è stata inculcata che si debba tracciare una linea della considerazione morale. Quindi ovviamente tutto questo si accompagna ad una consapevolezza politica e sociale che il primo animalismo sicuramente non riconosceva. Ricordiamo i riferimenti del libro: Massimo Filippi, Filippo Trasatti, Crimini di pace, editore Eleutera. Sostiene Vallauri. Oggi con Luigi Lombardi Vallauri parliamo di un caso recente accaduto ad Asti durante il palio locale. Un cavallo, Mamutones, è morto all'avvio della gara con il collo spezzato di fronte a migliaia di persone e in diretta televisiva, creando un caso che ha un po' scioccato l'opinione pubblica, anche se sul momento si è arrivati semplicemente alla sospensione della gara e al rinvio al giorno dopo, con il Consiglio Comunale di Asti e il sindaco stesso di Asti che hanno giustificato l'opportunità di andare avanti, respingendo anche le proteste degli animalisti, sostenendo che il palio di Asti non è una corrida ed è legittimato da una tradizione plurisecolare. Cosa possiamo dire di questo tipo di spiegazione? A parte i rilievi animalistici, cioè il dolore per il cavallo, eccetera, io vedo due considerazioni inglobanti del problema che vanno al di là del semplice animalismo. Io tendo sempre più a inquadrare, a inglobare l'animalismo in questioni più generali che abbracciano anche diciamo le discriminazioni all'interno del mondo umano. E qui ne avrei selezionate due. La prima questione è il corpo del campione sportivo e la seconda è il valore della tradizione. Sul corpo del campione ha scritto un libro molto interessante Isabelle Queval, una filosofa francese. Isabelle Queval si è accorta che dall'educazione fisica si è passati allo sport, e allo sport come non épanouissement, cioè dischiudimento, sboccio di sé, ma al dépassement, al superamento di sé in direzione dell'estremo. Il corpo del campione è un corpo atletico destinato, votato al superamento di sé, all'estremo, al rischio, al record, alla super notorietà, al super guadagno. Questo comporta un doping praticamente inevitabile, che si tratti di uomini o di animali, comporta incidenti gravi e spesso mortali anche di campioni umani, comporta overstrain, cioè una sfida eccessiva fatta al corpo, che diventa anche quello di una specie di gladiatore, di vittima dei media. Allora ho accomunato il caso del cavallo campione a questo caso dell'uomo campione in una prospettiva inglobante, chiamiamola pure di non violenza. Ecco, un ritorno a una diversa cultura del corpo. Ci sono anche gli sport dell'avventura che espongono gli alpinisti a rischi mortali, e non solo gli alpinisti, insomma, gli speleologi, tutta una serie di persone sottoposte a sfide eccessive. Ecco, questa era la prima considerazione. La seconda è il valore della tradizione. Beh, la tradizione sì, è certamente una bella cosa, ma ci sono tradizioni buone e tradizioni cattive. Per esempio, è assolutamente tradizionale in moltissimi popoli la schiavitù. Non c'è niente, credo, di più tradizionale della guerra, che si tratti di tradizioni nazionali o di tradizioni religiose. È assolutamente tradizionale la non cittadinanza della donna. Catrain, un teologo cattolico, negli anni 30 diceva che la donna non può votare perché c'è il consenso universale di tutte le tradizioni umane sul fatto che la donna non è civis, non è un cittadino. Per esempio, Wojtyła, quest'uomo che ha monopolizzato il microfono teologico per decenni, parlava delle radici cristiane dell'Europa. Non c'è niente di più tradizionale delle radici, e non c'è dubbio che tra le radici cristiane dell'Europa c'è l'anti-ebraismo, che poi diventa antisemitismo. Vogliamo rivitalizzare l'anti-giudaismo dei perfidi giudei in nome della tradizione, e così via. Ecco, i crinali della mia Valmaira meravigliosa in Piemonte sono tutti coronati di bunker micidiali per la guerra contro la Francia, e le guerre italo-francesi fanno parte delle buone tradizioni, e lì il caldo morbido delle stelle alpine germoglia in mezzo al nerastro rugginoso dei reticolati. Insomma, vogliamo difendere i reticolati antifrancesi. Io sono vivo perché i cari alleati francesi e inglesi, volendo uccidere i tedeschi che si erano annidati nella mia scuola, sono vivo perché non mi hanno centrato, ma hanno bombardato la scuola e avrebbero ucciso i bambini. Quindi, tornando agli animali, non ogni tradizione va difesa. Ecco. E quindi io vorrei, per esempio, che Petrini, e quello dello slow food, una nuova grossa potenza economica orientata alla tradizione, si convertisse molto di più al vegetarianismo e difendesse un po' meno le radici carnivore dell'Europa. Per concludere, una buona notizia. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato nei giorni scorsi una mozione promossa dal consigliere Rudy Russo per proibire l'attendamento in Toscana dei circhi che impiegano ancora negli spettacoli animali selvatici ed esotici. Lo scopo della mozione è spingere le amministrazioni comunali a dotarsi finalmente di regolamenti specifici sulla materia. Non è ancora una soluzione definitiva per la questione dei circhi con animali, ma un nuovo passo avanti lo è sicuramente.